Non possiamo nascondere il nostro imbarazzo quando leggiamo i libri profetici e le relative profezie contenute nella Bibbia, perché si riferiscono a nazioni e persone che per lo più ci sono sconosciute. Inoltre, le previsioni per lo più di minacce e di giudizio che vi sono contenute, oltre che produrre un certo fastidio, hanno un sapore di contrasto con il messaggio evangelico di un Dio di amore che ha dato il proprio figlio per riconciliare l'uomo a sé. Eppure, le profezie fanno parte della parola di Dio, quella parola necessaria per fortificare la fede di chi si è affidato a Cristo, quella parola che serve per conoscere il Cristo che si è rivelato tramite le Scritture. Forse uno dei libri profetici più conosciuti è quello del profeta Geremia, sia perché non è enigmatico come il libro del profeta Ezechiele, sia perché il profeta Geremia di tanto in tanto nei suoi scritti traccia degli episodi personali che ne rendono la lettura piacevole e interessante. Uno di questi episodi lo troviamo nel capitolo 32 del suo libro, episodio che costituisce l'oggetto del nostro interesse perché troviamo in esso degli elementi riguardanti la vita di un profeta che ci ragguagliano. Non solo. Vedremo in questa esperienza di Geremia come è una profezia e a cosa servono le profezie. Due elementi che rendono lo studio interessante. Iniziamo la lettura. La parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nebuchadnezzar. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. Lo aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: «Perché profetizzi?», dicendo: «Così dice l'Eterno, ecco, io darò questa città in potere del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà certamente dato in potere del re di Babilonia, e parlerà con lui faccia a faccia, e lo vedrà con i suoi stessi occhi. Poi egli condurrà Sedechia a Babilonia, dove egli resterà finché io lo visiterò», dice l'Eterno. «Se combattete contro i Caldei, non riuscirete a nulla». Una caratteristica delle profezie bibliche è che esse sono spesso presentate in un preciso contesto storico, in modo che nessuno abbia da metterle in discussione. Questo episodio della vita di Geremia si svolge durante l'assedio da parte del re babilonese Nebuchadnezzar, che durò degli anni. Il profeta era rinchiuso nel cortile della prigione del palazzo. Nonostante Geremia dicesse la verità e parlasse da parte dell'Eterno il suo messaggio catastrofico, secondo il quale Gerusalemme sarebbe stata presa dal nemico, disturbava gli altri profeti e il re, i quali non volevano che la città che ospitava la dimora di Dio venisse presa e distrutta. Questo modo di procedere nei confronti della verità non è mai stato nuovo e inaspettato, perché da sempre la verità disturba più di una zanzara noiosa e insistente. Durante la notte, nonostante si dica di amare la verità, nonostante gli uomini sostengano di voler sentire la verità, nella vita pratica il loro comportamento contraddice ogni buona affermazione. Perché? Perché la verità, il più delle volte, si presenta contraria ai nostri pii desideri. In effetti, i profeti e re Sedechia avevano dei buoni sentimenti, desideravano il bene per la città di Gerusalemme e per il popolo. Perciò era normale che un profeta annunciatore di cose nefaste venisse fatto tacere e possibilmente fatto morire. È più credibile e accettabile un discorso di pace e di serenità, o un messaggio funesto e di distruzione. Nessuno desidera il dolore, nessuno ama la guerra, e per questo ancora oggi, dopo migliaia di anni, gli uomini sono sempre più interessati e volti solo a discorsi di pace, di gioia, di benessere. Molti dimenticano volontariamente che Gesù disse di non essere venuto a mettere pace ma spada, cioè divisione e guerra. Un simile discorso disturba il coro di chi parla di pace e armonia, e per questo chi predica l'Evangelo nella totalità del suo messaggio, cioè la promessa della vita eterna per chi crede in Gesù Cristo e la perdizione eterna per chi rifiuta di credere in Lui, viene messo da parte, accantonato, sopportato, in attesa che egli si unisca al coro. Proprio perché Geremia non si adeguava al messaggio degli altri, venne messo in prigione, cioè venne messo a tacere. Questo era il normale destino di un profeta che parlava da parte dell'Eterno, come è il normale destino di chi dice la verità e la vive. L'Apostolo Paolo disse che chi vuole vivere piamente sarà perseguitato, e questo non sempre da parte degli increduli, ma, come accadeva a Geremia, anche da parte di coloro che condividono la stessa fede. Considerando le profezie in questa ottica, ci rendiamo conto di come un messaggio, o gli episodi di migliaia di anni fa, siano più che mai attuali. Proseguiamo la lettura. Allora Geremia disse: «La parola dell'Eterno mi è stata rivolta, dicendo: Ecco, Hanamel, figlio di Shallum tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è in Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Perciò Hanamel, figlio di mio zio, venne da me nel cortile della prigione, secondo la parola dell'Eterno, e mi disse: Ti prego, compra il mio campo che è in Anatot, nel territorio di Beniamino, perché tu hai il diritto di eredità e il diritto di riscatto. Compratelo. Allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno. Non sappiamo sempre di preciso come i profeti udissero la voce di Dio, ma Geremia aveva avuto una rivelazione che suo zio sarebbe andato da lui per offrirgli la compera di un campo. E in effetti ciò avvenne. Questo episodio può darci una maggiore sicurezza in merito alla serietà del ministero dei profeti. Il fatto che, dopo la visita del cugino, Geremia dichiarasse «Allora riconobbi che questa era la parola dell'Eterno», rivela che anche Geremia vedeva negli eventi della vita una conferma di ciò che udiva da parte dell'Eterno. Del resto così deve comportarsi chi ha posto fede in Cristo Gesù. Sono troppe le persone che credono ad ogni spirito, sono troppe le persone che si affidano ad ogni profezia per sapere come comportarsi nella vita, sono troppe le persone che credono agli oroscopi, ai maghi, ai chiromanti. La mia esperienza nel predicare l'Evangelo lo dimostra. Spesse volte vedo delle anime che sono anche disposte a credere al messaggio di Cristo, ma noto le loro grosse difficoltà. La titanica fatica a comprendere e a prendere una decisione per Cristo. E allora mi sorge un dubbio. Chiedo loro se per caso hanno avuto a che fare con maghi, con chiromanti, con persone che le hanno fatto le carte, che si sono prestati alla lettura dei tarocchi. Ed ecco, illuminarsi il viso e rispondere di sì. Generalmente confessano che il tutto era fatto per gioco e per curiosità. Ma l'aver prestato il loro cuore a queste pratiche sataniche le ha rese quasi immuni all'ascolto del messaggio del Vangelo e alla decisione per Cristo. Triste situazione, triste storia. Dire che si scherza con il fuoco è poco, perché chi chiede previsioni del futuro, se non si rivolge a Dio tramite Gesù Cristo, scherza con il fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Poiché aveva avuto la prova che la proposta di suo zio era la volontà dell'Eterno, Geremia agisce di conseguenza. Ecco il seguito dell'episodio. Così comprai da Hanamel, figlio di mio zio, il campo che era in Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Firmai l'atto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro sulle bilance. Quindi presi l'atto di compra, quello sigillato, secondo la legge e gli statuti, e quello aperto, e consegnai l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maseia, in presenza di Hanamel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano firmato l'atto di compra, e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch, così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: prendi questi atti, l'atto di compra, tanto quello sigillato quanto quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino per molti giorni. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: in questo paese si compreranno ancora case, campi e vigne. Nonostante Geremia fosse in prigione a causa della sua fede, ha la possibilità di svolgere alcune normali faccende della vita. Nulla di strano, si dirà, ma qualcosa di strano ci è, perché questa sua libertà, anche se ristretta, sarà una opportunità per ricevere da Dio altre rivelazioni. E così è della vita di ognuno di noi. A volte Ci sono situazioni favorevoli, a volte altre che sono decisamente opposte ai nostri programmi. È molto difficile accettare che tutto sia contrario, o accogliere favorevolmente un mancato obiettivo tanto desiderato. Ma se è vero, e lo è, che ogni cosa coopera al bene per quelli che amano Dio, allora una buona disposizione d'animo ci rende atti a comprendere i piani di Dio. Geremia fa ogni cosa in regola, mette l'atto di compiere in un vaso perché si mantenga, poiché, secondo la promessa dell'Eterno, nonostante l'imminente distruzione della città, verranno dei tempi nei quali a Gerusalemme si venderanno e si compreranno case, campi, vigne. In definitiva, quello che stava facendo Geremia non era altro che un presagio e simbolo di quello che sarebbe successo in futuro. Questo aspetto della vita dei profeti e di tutti quelli che sono strumenti nelle mani di Dio mi ha sempre fatto pensare. Mentre noi viviamo un presente apparentemente senza forma né senso, chi ha affidato la sua vita a Cristo può essere certo che tutto ciò che gli capita davanti a Dio ha senso e forma. Basti pensare al re Davide con la sua vita travagliata e piena di angosce e dolori. Eppure, non vi è stata nessun'altra vita più simile a quella del figlio di Dio. Lui non lo sapeva, non avrebbe mai immaginato che il suo grido «Dio mio, perché mi hai abbandonato» sarebbe stato pronunciato anche da Gesù sulla croce. Se sei un figlio di Dio, se la tua vita è governata da Gesù Cristo, sappi che non vi è situazione positiva o negativa che non possa essere un messaggio profetico. È profezia non solo quello che viene detto, ma come per Geremia, anche quello che viene vissuto. Geremia asseconda la richiesta di suo zio perché lo ritiene un atto di ubbidienza all'Eterno, ma rimane scioccato di questo gesto e, non potendo contenere questo suo stato d'animo, effonde in una preghiera che ha il sapore di una lamentela e di un certo dubbio. Ecco il resoconto del racconto. Dopo che ebbi consegnato l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, pregai l'Eterno dicendo: «Ah, Signore Eterno! Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra, con la tua grande potenza e con il tuo braccio disteso. Non ci è nulla troppo difficile per te. Tu usi benignità verso mille e ripaghi vaghi l'iniquità dei padri in seno ai loro figli dopo di essi, Dio grande e potente, il cui nome è l'Eterno degli eserciti. Tu sei grande in consiglio e potente in opere e hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per dare a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai operato fino al giorno d'oggi segni e prodigi nel paese d'Egitto, in Israele e in mezzo ad altri uomini, e ti sei fatto un nome come è quest'oggi. Tu facesti uscire il tuo popolo dal paese d'Egitto con segni e prodigi, con mano potente, braccio disteso e con grande terrore. Tu desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dare loro, un paese dove scorre latte e miele. Essi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato nella tua legge. Non hanno fatto tutto ciò che avevi comandato loro di fare, perciò tu hai fatto venire su di loro tutta questa calamità. Ecco, i terrapieni giungono fino alla città per prenderla, e la città è data in mano dei Caldei, che combattono contro di essa, con la spada, la fame e la peste. Ciò che tu hai detto è avvenuto. Ecco, tu lo vedi. Prima di esprimere il suo stupore e sbigottimento, Geremia ricorda l'incomparabile grandezza e maestà del carattere dell'Eterno. Rammenta che l'Eterno ha fatto i cieli e la terra. Ricorda che egli si comporta con fedeltà e con amore. Ricorda che ha liberato il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto, che condusse il popolo nella terra promessa. Rammenta pure, secondo ciò che aveva detto, l'Eterno causa l'infedeltà del suo popolo. Ora la città di Gerusalemme era in mano dei Caldei. E poi conclude dicendo: «E tu lo vedi». Geremia si arrende di fronte all'evidenza. Non sa cosa dire, perché ora tutti gli abitanti di Gerusalemme stanno per essere deportati lontano dalla loro terra. Gerusalemme sta per essere distrutta. Questa è la realtà. Questo è un dato di fatto. Geremia è spettatore della sciagura che sta per accadere al suo popolo e alla sua città, e non ha parole di fronte all'ordine dell'Eterno di comprare un campo da suo zio. e per questo continua la sua lamentela. Eppure, o Signore, o Eterno, tu mi hai detto, comprati con denaro il campo e chiama i testimoni, mentre la città è data in mano dei Caldei. Geremia era un profeta, compiva il volere di Dio, eppure ai suoi occhi ciò che faceva non aveva una logica. Non era logico che egli predicasse a tutti di arrendersi ai Caldei e lui che si comperasse un campo come se nulla stesse succedendo. Non era coerente ordinare a tutti di andarsene dalla città, lasciare campi e ogni bene materiale mentre lui si creava una certa sicurezza di benessere. Il suo comportamento era insensato e incoerente e Geremia si lamenta davanti all'Eterno. Che cosa mi stai ordinando, Signore? Lo so che sei potente, so che hai creato i mondi e formato il popolo di Israele, ma perché ora mi ordini di avere un comportamento che contraddice il mio messaggio? Anzi, il tuo messaggio? Geremia era confuso. Più che confuso. Come sono confusi a volte coloro che ubbidiscono alla volontà di Cristo? Era confuso Lutero, quando si trovò da solo di fronte all'imperatore e ad un'assemblea di principi, di ambasciatori, di magistrati e di cardinali. Da solo di fronte a tutte le autorità civili e religiose riunite, mentre gli fu lanciata l'intimazione di ritrarsi dalle sue convinzioni. Dopo aver riflettuto un giorno, rispose: «Se non mi si dimostra, con la scrittura, che ho torto, non posso né voglio ritrarmi. La mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e non è bene agire contro la propria coscienza. Non posso altrimenti, Dio m'aiuti». Lutero era confuso, ma rimase fermo nella fede. L'esperienza di Lutero non è stata un'esperienza unica, perché spesso il credente può trovarsi confuso e imbarazzato di fronte a certe scelte. Avere fede in Dio, credere in Cristo quale Salvatore e Signore crea certezze e una luce che rischiara il cammino terrestre, ma a volte la stessa fede e l'ubbidienza ai comandamenti di Cristo possono essere motivo di interrogativi. Geremia doveva comprare un campo mentre annunciava insistentemente al popolo che sarebbero stati deportati lontani dalla loro terra. Come il cristiano che predica un messaggio di amore quando intorno a lui non vi è che odio e sofferenza. Quante volte nell'ascoltare il messaggio di amore dell'Evangelo la gente risponde: se esiste davvero un Dio di amore perché permette la sofferenza, perché Dio permette che i malvagi riescano nei loro piani? Interrogativi più che giusti, interrogativi inevitabili, non che ad essi non ci sia una risposta. Dio permette che trionfi il male perché lascia l'uomo libero. E anche questo è un atto di amore, ma rimane comunque il fatto che spesso il credente predica una cosa e apparentemente vive in contraddizione. Chi ha posto fede nel Dio trino delle Scritture, predica la gioia che si ha in Cristo e spesso è contristato a causa della sua fedeltà. All'Evangelo, predica una vita abbondante per poi trovarsi a volte nelle necessità e nell'indigenza. Predica la pace e la serenità per poi trovarsi coinvolto in una vita tempestata di avversità. Questa è la vita cristiana, questa è stata e sarà la vita di chi pone fede nel Dio trino. Isaia poneva in evidenza questa verità ponendosi queste domande: chi è cieco se non il mio servo, o sordo come il mio messaggero che invio? Chi è cieco come colui che è in pace con me, cieco come il servo dell'Eterno? Isaia 42:19. Il Dio delle Scritture è un Dio che rivela, illumina, ma a volte è un Dio che si nasconde, che non dà a tutto una risposta. Geremia si trovava nella confusione, non aveva una risposta. Così l'Eterno apre ancora la bocca. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia, dicendo: ecco, io sono l'Eterno, il Dio di ogni carne. È forse qualcosa troppo difficile per me? Perciò ora così dice l'Eterno, il Dio di Israele, riguardo a questa città, di cui voi dite: essa sarà data in mano del re di Babilonia, per mezzo della spada, della fame e della peste. Ecco, li radunerò da tutti i paesi dove li ho dispersi nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e li farò abitare al sicuro. Essi saranno per me il mio popolo, e io sarò per loro il loro Dio. L'Eterno rivela a Geremia che per Israele e la città di Gerusalemme ci sarà un ridente futuro. L'Eterno invita il profeta a non scoraggiarsi. Anzi, gli rivolge una stupenda promessa. Così dice: L'Eterno che fa questo, l'Eterno che lo forma per stabilirlo, il cui nome è l'Eterno. Invocami e io ti risponderò, e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ecco che nella confusione, per chi ha posto una reale fede nel Dio trino delle Scritture, riceve ulteriori rivelazioni. Cosa potrebbe esserci di così nuovo di fronte ad una catastrofe come la guerra, morte e violenza? L'Eterno risponde: Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunciato riguardo alla casa di Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia, che eserciterà giudizio e giustizia nel paese. In quei giorni Giuda sarà salvato, e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo sarà il nome con cui sarà chiamata: l'Eterno, nostra giustizia. Infatti così dice l'Eterno: Non verrà mai meno a Davide chi segga sul trono della casa di Israele, e ai sacerdoti leviti non verrà mai meno davanti a me chi offra olocausti, faccia fumare le offerte di cibo e compia sacrifici tutti i giorni. La parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia, dicendo: Così dice l'Eterno, se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il patto con la notte, in modo che non ci sia più giorno o notte al loro tempo, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide mio servo, in modo che non abbia un figlio che regni sul suo trono, e con i sacerdoti leviti, miei ministri. Queste parole e promesse suonano strane ai nostri orecchi, ma l'Eterno non sta dicendo altro a Geremia se non che verranno i giorni nei quali in Gerusalemme regnerà un discendente di Davide, cioè Cristo Gesù, il quale regnerà su tutto il territorio di Israele e su tutto il mondo. E per dare garanzia di ciò che ha promesso, l'Eterno prende l'esempio dell'inistinguibilità delle leggi fisiche. Se non ci sarà più il giorno e la notte, allora anche ciò che ha promesso verrà meno. Ecco quindi lo scopo delle profezie. E, vero che la Bibbia parla di popoli e nazioni, di città e paesi, di guerre e patti di pace, ma tutte queste cose riconducono ad un solo punto. Un giorno tornerà Gesù Cristo dal cielo per regnare su tutta la terra con coloro che hanno posto fede in Lui. Gerusalemme sarà la città dove abiterà Cristo Gesù. Le profezie non sono rivelazioni a sé stanti, non sono rivolte a città e nazioni per loro stessi, ma perché sappiano che come si è avverato il male, così si avvererà anche il regno millenniale di Cristo. Questa è la fede del cristiano. Questa è la speranza del cristiano. Illusione? False speranze? Dubbi che potrebbero esistere, ma di fronte a fatti concreti verificatisi dalla creazione del mondo ad oggi, ogni interrogativo muore sulle labbra. Se Gesù è nato, vissuto, morto e risorto secondo le profezie, allora anche il suo ritorno è certo, come è sicuro che domani il sole risorga. Dicembre 2005. Ellero.